Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giovanni Anzani, Polyform e le sfide del saper fare, di Alessandra Scaglioni. Giovanni Anzani è attualmente presidente di Polyform, azienda del settore del mobile con sede in Brianza, che guida assieme ad Alberto e Aldo Spinelli e che è stata fondata 70 anni fa da 4 soci. Iniziamo con i nostri genitori nel 1942 come una delle tante imprese artigianali che sono cresciuti nella Brianza, con quella cultura un po' da sempre che contraddistingue questo territorio del far bene le cose. Questi due fratelli Anzani e due fratelli Spinelli, no, iniziano questa avventura che poi è stata interrotta durante la guerra e ripresa, diciamo, subito dopo la guerra da chi è rientrato dal campo di concentramento, chi dall'Africa, no? Per cui si è ricomposta questa bottega e è iniziato questo lungo cammino che ha portato inizialmente a lavorare con dei prodotti chip and dial in stile, no? Che si lavorava principalmente sulla Lombardia. Poi man mano ci si è portati in altre regioni d'Italia. Ecco, tutto questo è arrivato fino al 1970, quando, stanchi loro di una vita fatta di duro lavoro effettivamente, perché prima si lavorava praticamente 15 ore al giorno, hanno mollato in mano la gestione dell'azienda a noi tre, gli attuali Aldo e Alberto Spinelli, io Giovanni Anzani, come seconda generazione. Prendono in mano l'azienda giovanissimi, a 20 anni o poco più. I padri passano le redini, mettendo in pratica una loro soluzione a una delle questioni più delicate dell'impresa familiare italiana, quella del passaggio generazionale. Inizialmente posso dire che io ero ancora minorenne e ho dovuto fare l'emancipazione al Tribunale dei Minori. L'altro aveva finito il militare, Alberto aveva appena finito gli studi, no? Di conseguenza eravamo giovanissimi e prendere in mano le redini di un'azienda, io credo che i nostri genitori per qualche anno non abbiano dormito. E nel territorio si diceva, vedrai adesso i giovani come disfano le aziende e quant'altro. Diciamo che dopo un po' di anni siamo diventati un referente invece, cioè dire che dar fiducia ai giovani e seguirli, poi invece non è vero che poi le aziende le disfano, ma le fanno crescere. Loro sono rimasti in azienda, non si sono mai permessi di intromettersi, però a domanda rispondevano. Credo che questo sia un modo corretto di responsabilizzare i giovani, però non lasciarli a se stessi, ma stando dietro come si fa con i bambini piccoli, cioè si sta dietro fino a quando imparano, prima traballano, poi imparano a camminare e vanno. Nel 1970 Polyform produce mobili moderni, ha una 50 di dipendenti e commercializza nelle regioni del nord Italia. Con l'arrivo della seconda generazione cresce e nel decennio successivo va all'estero. La nostra entrata ha cominciato ad accettare queste sfide, innanzitutto di avere un territorio nazionale, spostando man mano la produzione su una produzione sempre più di design, e questo, diciamo, ha cominciato ad apprendere le prime, per tutti gli anni 70, no? Questa crescita di posizionamento e anche crescite in termini di numeri. Negli anni 80 ci si è andati un'altra sfida, e la sfida era quella del cominciare a capire qual era il mercato europeo. Credo che questo sia stata una scelta vincente, in quanto siamo andati nei momenti in cui non c'era bisogno, ma abbiamo cominciato a capire le problematiche di questi mercati, che erano diversi dalle nostre, chiaramente. E questo ci ha fatto acquisire, innanzitutto perché eravamo anche in pochi, ci ha fatto acquisire una certa credibilità. E questo poi ci ha spinto negli anni 90, no, ad andare su un discorso internazionale. Oggi ha più che decuplicato il numero dei dipendenti. Ha una forte presenza all'estero, un fatturato di 115 milioni, con 55% che arriva dall'export. La crescita avviene in termini numerici e di tipologia di prodotti, anche attraverso acquisizioni. A tutt'oggi l'azienda è cresciuta molto, siamo presenti in 80 paesi, in giro per il mondo. L'azienda da 50 persone, oggi siamo 600 in Italia e 100 nelle controllate all'estero, commerciali, la Polyform UK e la Polyform USA, tra cui fra l'altro c'è mia figlia Laura che è in gestione da 4 anni in quanto abbiamo ritirato le quote al 100% e la stiamo gestendo direttamente. Ecco, questa presenza con circa 70 flexi store monobrand firmati Polyform o l'altro marchio. E questo, diciamo, fa che sia il brand Polyform molto molto vincente. Per cui il passaggio qual è stato? Quello di cominciare prima inizialmente a produrre per la zona giorno e la zona notte principalmente. Dopodiché negli anni 90 abbiamo acquisito un'azienda col marchio Varenna, un'azienda storica, no, nella Brianza, che produceva cucine. E abbiamo fatto dei forti investimenti sia in tecnologia sia anche, diciamo, in qualità, in ricerca di materiale e quant'altro. E questa sfida si è dimostrata vincente, in quanto abbiamo allargato la nostra gamma. È stato difficile all'inizio, perché rilanciare un'azienda storica sul milanese, direi, no? Ma lanciarla prima a livello nazionale, poi europeo, poi internazionale, è stata una sfida che oggi, devo dire, è stata vincente. Tra le prossime sfide, l'ampliamento della produzione anche al settore degli imbottiti, la conquista di nuovi mercati esteri e il rafforzamento, o per meglio dire, la salvaguardia di ciò che rappresenta un asset di valore strategico, la capacità artigianale del territorio. Attualmente noi siamo con 7 stabilimenti produttivi, 7 unità, 6 produttivi e uno invece l'ultimo, che è il Polyfor Lab, dove accogliamo tutti i clienti che ci arrivano da tutto il mondo, e dove abbiamo delle sale di formazione, delle sale di riunione per spiegare chi siamo e dove stiamo andando. Abbiamo 3.500 metri di showroom dove sono esposti i nostri prodotti, per cui possono toccare con mano. C'è l'ufficio comunicazione e in special modo anche l'ufficio di progettazione, cioè noi acquisiamo spazi che ci mettono a disposizione, facciamo i progetti, dopodiché col cliente decidiamo appunto quali prodotti sono più interessanti o meno. Nel periodo di difficoltà attuale, una delle soluzioni è fare rete nei territori. E Polyform l'ha fatto con un'iniziativa che coinvolge piccole imprese e artigiani e che porta benefici per tutti. Contemporaneamente abbiamo aperto anche una divisione contract. Contract è tutto ciò che è custom, per cui per noi sono solo degli uffici che hanno capacità di portare a casa delle commesse che poi facciamo produrre sul territorio. Questo credo che sia una sfida sia per noi, per aumentare un po' il fatturato, poter anche utilizzare questo laboratorio di ricerche di materiali, ma ancora di più riusciamo a far sopravvivere tutta una serie di piccole e medie imprese in Brianza che hanno una cultura straordinaria del saper fare, ma che in termini commerciali non hanno questa capacità di portare a casa queste commesse. È gente che sa fare, e questa cultura non possiamo permetterci, per il futuro delle nostre imprese, di perderla. Per cui anche in questa direzione, no, è un ritorno anche sulle nostre aziende. Anche se noi siamo tecnologicamente molto avanzati, però a monte, quando dobbiamo prototipare, quando dobbiamo ricercare una cerniera particolare, no, un tipo di lavorazione, abbiamo bisogno di questa gente che sa fare. In tempo di crisi vale anche per questo settore l'importanza di avere una presenza forte all'estero, che può supportare il calo della domanda interna. E chi non è strutturato in questo senso, oggi rischia di non farcela. Io sono ben contento che le cose vadano bene, perché se gli altri vanno bene io penso di andare meglio, ma se gli altri soffrono, soffrirò meno, ma soffriamo anche noi. Per cui in questa direzione noi auspichiamo sempre che ci sia un'economia vincente. Purtroppo dobbiamo registrare, specialmente in Italia, che in questi ultimi periodi la gente, diciamo, innanzitutto non ce la fa a livello monetario, perché il potere d'acquisto è diminuito molto. Attingere ai finanziamenti è molto difficile, e poi, diciamo, c'è anche una non voglia da parte dei giovani di mettere su casa, no? Per cui già questo mercato manca. L'altro, intendo quelli che possono avere soldi, è fortemente spaventato da tutte queste cose e rimanda le decisioni d'acquisto. Per fortuna per noi siamo molto esposti sull'estero, no? E in questo caso sentiamo fortemente la mancanza del mercato interno, che compensiamo però sul discorso estero. Anzani è anche presidente di Assarredo e vicepresidente di Federlegno, e parlando del settore sottolinea quanto sia fondamentale mantenere e trasmettere ai giovani le capacità artigianali, che sono uno dei grandi valori dell'Italia rispetto alla concorrenza internazionale e ai prodotti low cost. Ma guardi, noi proprio in ambito di federazione stiamo aprendo una scuola, l'entrata sul Zevoso, per l'anno prossimo, proprio per trasmettere questa cultura, no? Cioè noi abbiamo un forte bisogno per il futuro delle nostre imprese di attirare i giovani, perché il futuro delle imprese sono i giovani, non siamo certamente noi, no? Per cui c'è questa voglia, questa sfida di rilanciare l'immagine delle nostre botteghe, no? Che forse i giovani non amano, non hanno voglia di cimentarsi, no? Per cui attirare e far capire qual è il bello che c'è all'interno, perché noi abbiamo tecnologie, siamo molto creativi, perché comunque proponiamo, abbiamo possibilità di girare il mondo, però tutto questo va comunicato. E poi i giovani, no? Fargli una formazione di base. Ma sottolinea anche quanto sarebbe indispensabile il ruolo del decisore pubblico nella tutela della proprietà intellettuale, nell'attenzione alla specificità del prodotto italiano e alla protezione della sua creatività. Stiamo chiedendo al governo innanzitutto di poter dare un'agevolazione a questi giovani che vogliono mettere su casa, magari limitato alla prima casa. Portare l'IVA al 4% per una parte degli arredi, cucine, arredo bagni e armadi, in modo tale che loro lo possono mettere non al 21 ma al 4 e lo possono mettere insieme al mutuo della casa e pagarli in 20 anni. Questo sarebbe una grande agevolazione da parte nostra. L'altra è quella un po' di proteggere quello che è i nostri prodotti. In questo momento, diciamo, la proprietà intellettuale non è difesa. L'abbiamo visto anche negli ultimi mille proroghe in cui si è infilato dentro, diciamo, una legge che non protegge più, diciamo, dopo i 10 anni i brevetti. E questo vuol dire che tutto il nostro mondo dell'arredo fatto, no, in generazioni può essere copiato tranquillamente da tutti, no, distruggendo un valore straordinario. Ma ancora di più, io quello che chiedo al governo da portarlo in ambito europeo, perché se no non serve a niente, far accompagnare tutti i prodotti che transitano sull'Europa un libretto di certificazione in cui si dichiara innanzitutto se un originale è un falso, a protezione comunque dell'utente finale, del consumatore finale, in cui si dice in quale paese è prodotto, in modo che uno sappia se è fatto in un paese inquinante o in un paese a sfruttamento minorile, e ancora più importante con quale materiale viene fatto. Giovanni Anzani è attualmente presidente di Polyform perché i tre soci sono tutti e tre amministratori delegati, ma ricoprono la carica di presidente a turno e inseriscono in azienda la terza generazione. Siamo una testimonianza in cui la nostra azienda non c'è mai stato un leader, ma una coesione a tre, per cui ognuno di noi, per caratteri e culture differenti, siamo riusciti a convivere, siamo arrivati ad oggi, per cui dopo 42 anni di convivenza, e ci sembra ancora il primo giorno, abbiamo sempre l'entusiasmo di sempre, e per cui adesso, diciamo, continuiamo in questo momento un po' particolare e a gestire, diciamo, l'ingresso dei nostri giovani. Ne abbiamo 8, di cui 7 sono già in azienda, e tenendo presente il percorso, la fiducia che ci hanno dato i nostri genitori, stiamo cercando di formarli, responsabilizzandoli, no? Facendo chiaramente un po' di anni di apprendistato, come si faceva un po' nelle botteghe artigianali. Per cui stiamo gestendo un po' questo e devo dire che è molto entusiasmante, perché c'è una vivacità in azienda molto forte, i giovani hanno voglia di imparare, di mettersi in discussione, questa è una cosa molto importante e positiva, per cui credo che, vedendo un po' lontano dalla nostra azienda, pensiamo che sia un'azienda che abbia un po' futuro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.